Yes People, questo è Jolly Roger. Adesso siamo qui e questo è Jolly Roger, siamo in diretta, oggi è venerdì 9 dicembre 2022 e iniziamo questa nuova puntata di Jolly Roger, seconda stagione per noi, e in diretta come sempre dalle 17 alle 18, minuto più, minuto meno, come sempre rigorosamente dal Brancaleone. Salutiamo come consuetudine le nostre amiche e ormai consuete ascoltatrici che sono le ragazze del gas, salutiamo tutto il Brancaleone, tutti e tutte che frequentano lo spazio. E niente, iniziamo questa nostra puntata con un primo pezzo e poi ritorniamo in diretta come sempre su www.pirateradio.it. Cerco di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi, cerco di non pensare al primo pezzo per noi. I miei piani, oh. Cosa te ne fai dei fogli viola? Oh, oh, oh, oh, oh. Se poi li spegni da sola, se ci scende, cosa ci prende? Certi baci non sono di niente. Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre. Ma però non mi dire di no. Non di subito, non di subito. Meglio di noi non esiste, non può. Vieni subito, ci vuole un anno per capirti. Più mal di testa che vestiti, non può. Che cazzo hai, non lo so, dici no. E io per te ci morirei. Ho speso tutti i soldi, adesso ho solo buchi nelle mani. Per te che in fondo non ricordo più come cazzo ti chiami. Spari su un cuore antiproiettile, che possa amarti come un re. Quindi leviamoci la pelle, tanto a che serve, baby. Il peggio è passato, non guardo mai indietro, ci sono già stato. Oh, io lo sapevo, tu sei una che è di passaggio come nuvole. Se ci scende, cosa ci prende? Certi baci non sono di niente. Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre. Ma però non mi dire di no, non di subito. Meglio di noi non esiste, non può. Vieni subito, ci vuole un anno per capirti. Più mal di testa che vestiti, non può. Che cazzo hai, non lo so, dici no. E io per te ci morirei. Lo so, non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto. Dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto. E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come la metti adesso. Voglio fare del sesso. Ma E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Si diceva che un anno di Jolly Roger, un anno pieno di tante cose. Seconda stagione per noi, un laboratorio originale nato e cresciuto all'interno del Brancaleone. Con questo ci tengo a precisarlo. Ringrazio la cooperativa Idea Prisma che ci consente di realizzare questo progetto. Ringrazio, come detto prima, il Brancaleone che ci consente di andare tutti i venerdì in diretta nonostante le mille e mille difficoltà. E iniziamo questa nuova puntata con il nostro amico Luca. Questa settimana siamo, diciamo, la crew non è al completo, manca il nostro amico Matteo, ma con i potenti mezzi di Pirate Radio a breve ci collegheremo anche con lui. E ora, come detto prima, passo il mic a Luca. Buona serata a tutti, io sono Luca. La storia della carbonara e della sua ricetta. Ricetta antica, neanche troppo romana, solo di adozione. La carbonara, oggi simbolo di Roma, nonché ricetta amata in tutto il mondo, ha una storia poco chiara, non ha una precisa data di nascita, né una mamma o un papà. Si tratta di una ricetta nata nel secolo dopoguerra, in parte americana, in parte napoletana, in parte abruzzese. Solo dopo tanti anni diventa ricetta tradizionale romana. Cerchiamo di ripercorrere la storia della carbonara per scoprirne aneddoti e segreti. La ricetta della carbonara inizia a comparire dal 1944. Si narra che i soldati americani, durante la Seconda Guerra Mondiale, assaggiarono la pasta cacio e ova abruzzese preparata dai carbonari romanesco nel territorio dell'Aquilano, e da qui potrebbe nascere anche il nome carbonara. Da lì, aggiunge il guanciale, venne quasi naturale anche per la zona in cui la ricetta veniva realizzata, e fosse anche la pancetta affumicata, il famoso bacon importato direttamente dagli Stati Uniti. Ma c'è anche chi attribuisce la nascita della carbonara a Napoli. Il periodo è sempre lo stesso, siamo nel 1944. Le truppe americane amavano il cibo da strada che a Napoli servivano nelle bancherelle, quelle che oggi chiameranno street food. Amavano la tipica pizza a portafoglio e degli spaghetti cotti velocemente conditi con cacio e pepe. Sembra che un giorno un soldato americano, trovando insignificante quel piatto di spaghetti, ci aggiunse la cosiddetta razione K, composta da uova in polvere e pancetta, panna liquida, una ricetta che oggi fa rabbrividire, ma che potrebbe essere proprio l'antenata della nostra amica antenata da quella ricetta poco equilibrata. È molto americana, in Napoli. Esatto, è molto americana. A noi gli americani ci piacciono o non ci piacciono, perché la carbonara è italiana, diciamolo. I napoletani lavorano sugli ingredienti e nacque la carbonara presto sulla ricetta. Si diffuse nella capitale, ovvero Roma, che la fece sua. L'adottò a tutti gli effetti, rendendola un mito. Se volete realizzare una carbonara a regola d'arte, ci sono errori che non dovete assolutamente mai fare. Se non... E diciamoli, quali sono gli errori da evitare? Aglio e cipolla non sono da usare. Entrambi li... Chiariamolo una volta per tutte. Aggiunta di panna, rabbrividire è il nomino guai, è il minimo. Aspetta un attimo che si è inceppato il nostro amico. Allora, rabbrividire è il minimo, cioè dopo che quello che ci ha detto cipolla e compagnia bella, mi si drizzano le carni, come dice qualcuno. Guai a mettere la panna nella carbonara se lo fate, non chiamate la carbonara. L'unica cremina che condisce la carbonara è quella creata dall'unione tuorli d'uovo e pecorino romano. Sostituire il pecorino con altri formaggi, il pecorino romano è grande protagonista della carbonara. Qualcuno può scegliere di smorzarlo per gusto proprio con del parmigiano, con del grana, ma guai a sostituirlo con altri formaggi non definiti. Che carbonara sarebbe senza pecorino? Esattamente, che carbonara sarebbe senza pecorino? Uovo strapazzato nella pasta. Avete visto quel carbonare con frittatina spezzata all'interno della gustosa cremina? La manteca al posto della gustosa cremina? La mantecatura non va sbagliata, il mix di tuorli e pecorino va unito solo dopo averlo scolato e tolto dal fuoco pasta. Uso di pecorino o spezie varie sulla carbonara. Uso di peperoncino o spezie varie sulla carbonara. Va solo una macinata di pepe, vietato l'uso di qualsiasi altra spezia. Ok, ora mandiamo un pezzo e poi ritorniamo sempre con la ricetta sulla carbonara. Stiamo parlando della storia della carbonara. Settimana scorsa, per chi non ci ha ascoltato, lo ricordo, abbiamo parlato della storia del croissant, che non è francese ma è... è austriaco, perciò francesi, nanna. Nanna, e noi andiamo The Music. E siamo fresh qui a Jolly Roger. Quanto sogno no, in volo verso un mondo più buono, ma non voglio, non uomini che valgono tanto, ma che stanno poco, bro, che pensano dopo e non va bene. Quello che è sottorno, se poi non ritorno, se non lo sopporto. Fuori lì e snitch, manco gli ho detto fuck, credo che il karma giri, ma si ridu di me do. Che non mi vedrai mai più sbronzo. Ehi, pensi che non me ne vergogno. Ti chiedo scusa in ogni lingua del mondo. Mentimi, pensimi, fotta. Quando mi riempi di sensi di colpa, eviti gli occhi miei, credi sì, muoia. Vieni qui, siediti sopra. A volte mi sentivo preso un filo, volevo segnare ma ho preso un palo. Qua la sete, la fame mi ha reso schifo. I soldi e la fama mi ha reso schiavo. Adesso non me ne importa, perché a spenderli non mi rivedo. Me li porterò dentro la tomba, sarò il più ricco del cimitero, yeah. E sarei già sparito da un tot. Sto meglio in curva sud che coi ricchi al ground box. Non mi sento più io quando ti direi addio. Scrivo veleno in chat, ma poi non premo invio. Toc toc, bussano alla porta. Tu hai la lingua lunga e la memoria corta. Hai fatto una hit, falla un'altra volta. Se no qui poi la gente si scorda. Io mi fido solo di Siri, perché queste tipe ti amano e dopo ti infamano appena ti giri. Perché se finisce la festa qua vanno via tutti e non ci sono amici. Non vedi i miei sacrifici, non vedi le cicatrici. Non vedi che volevamo soltanto provare ad essere felici. Nel retro di una Rolls, lei pensa a farmi reels. Io a strapparle quei jeans, wow. Tu chi sei non lo so, parli troppo io boh. vorrei. Vorrei fare fuori lì e snitch, manco gli ho detto fuck. Credo che il karma giri, ma Siri tu dimmi dopo. Oh oh oh oh oh oh oh oh vedo. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, l'original Jolly Roger, in onda tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Siamo on air dal Brancaleone, siamo in diretta su www.pirateradio.it e a breve saremo anche su Gemini Network. Piano piano sveleremo questa nuova collaborazione. Intanto ringraziamo e salutiamo tutti gli amici e tutti gli amiche di Gemini Network. E ritorniamo in diretta, come detto prima, ripasso il mic al nostro amico Luca. E proseguiamo con il discorso della carbonara, visto che avevamo stoppata per la musica, ora lo riprendiamo. Errori assolutamente da non fare mai con la carbonara. Cottura sbagliata della pasta deve essere al dente, mai stracotta. Esatto, al dente, non con il dente. Sostituire il guanciale con la pancetta sono da bandire anche striscioline di prosciutto crudo, cotto o speck, lardo o simili ingredienti di tutto rispetto, per carità, ma che non hanno nulla a che fare con la carbonara. Perfetto, e allora parlando delle cose che si devono evitare nella carbonara, proseguiamo con gli ingredienti della carbonara. 120 g di guanciale, 20 g di pecorino romano DOP, 2 tuorli d'uva grandi, d'uovo, no, l'uva se la bevemo, non ti preoccupa. 2 tuorli grandi d'uovo o 3 medi. E sale e pepe. Qui sorge un dilemma: spaghetti o rigatoni. Sebbene gli spaghetti alla carbonara siano la morte sua, sui rigatoni la tradizione chiude un occhio, perché in fondo la carbonara è troppo buona anche con la pasta corta. Io chiudo due occhi perché mi faccio le mezze maniche. Tagliare il guanciale a dadini da parte. In una ciotola mischiare i tuorli con il pecorino romano e a piacere anche con parmigiano o grana padano. E aggiungere circa 150 grammi di acqua. Mescolare bene gli ingredienti con una frusta a mano finché non si crea una golosa cremina. Aggiungere sale e pepe a vostro gusto. È il momento di mettere l'acqua sul fuoco. Così ci sta a venire fame, però. In una padella mettere lo striscioline di guanciale senza olio e lasciare rosolare fiamma bassa finché il guanciale non diventa croccante. Buttare la pasta e controllare il tempo di cottura. Scolare la pasta quando ancora è un po' al dente, ma lasciare da parte un po' di acqua di cottura. Mettere la pasta in una pentola o in una grande ciotola per aggiungere il guanciale e mescolare. Versare la cremina formata da tuorli e il pecorino e continuare a mescolare. Senza rimettere sul fuoco, se è necessario, aggiungere un po' d'acqua di cottura. Terminare con una macinata di pepe con quale altre strisciolina di guanciale croccante. Seguendo questi passi e scegliendo di prodotti di buona qualità, la vostra carbonara non avrà difetti con amici e parenti e soprattutto buona pasta romana. Mitico, e noi andiamo con la nostra musica. Gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.

musica di Jolly Roger, dalle 17 alle 18 in onda tutti i venerdì dal Brancaleone. Questi sono i pezzi che scelgono loro, la crew di Jolly Roger. E ora ritorniamo con Luca, che è il momento anche dell'altra rubrica che ormai è diventato un must di Jolly Roger, sono le battute. Qual è il mio film preferito? Batman. Se fai arrabbiare una brocca, sbrocca. Avete visto dov'è il detersivo? Nel sen. Mi fa passare il sangue a ma. Perdi solo l'anticipo, passo dal compro oro e per un po' non lavoro. E adesso esco che mai messo una sete, che fame, frego le fragole ad un prete. Il cibo allunga la vita, è la meglio medicina in cucina, sì. Mi fa passare il sangue amaro, ma pucciarmi nudo dentro all'acqua, tanto il sole è calato. Mi fa passare il sangue amaro. Niente, tieniti l'auto e lasciami le monete, che non ho l'occorrente per fare le sigarette. Così stanotte risento la voce dei pianeti, e dai la colpa ai libri, e dai la colpa alla rete, perché mi vizio e consegna a casa direttamente. E non ho dignità perché frego i farmaci al prete. Tranquilla, sono scaduti il 2017, e adesso esco che mai messo una sete, che fame, frego le fragole ad un prete. Il cibo allunga la vita, è la meglio medicina in cucina, sì. Mi fa passare il sangue amaro, ma pucciarmi nudo dentro all'acqua, tanto il sole è calato. Mi fa passare il sangue amaro. Ti piace la mia noia, e fica velenosa, ridammi la mia pace se la nostra è finita, che la vita è generosa. Mi fa passare il sangue amaro, pucciarmi nudo dentro all'acqua, tanto il sole è calato. Mi fa passare il sangue amaro, spucciare un pomodoro in mare, viene fuori salato. Mi fa passare il sangue amaro. Amico, e noi ritorniamo in diretta. Abbiamo raccontato con Luca un po' di cose sulla carbonara. Abbiamo, nel frattempo, è arrivato il nostro altro partecipante a Jolly Roger, il nostro amico Lucone. E ora passo il mic alla nostra amica Alice. Ciao a tutti, oggi volevo raccontarvi le varie origini di Babbo Natale, perché sono presenti in molte culture della tradizione natalizia, ognuna ognuna racconta storie molto intriganti, ad esempio, nelle origini cristiane, San Nicola era un vescovo cristiano. San Nicola di Bari, diciamolo anche. Del IV secolo, nei Paesi Bassi, viene festeggiato annualmente il 5 dicembre, il giorno in cui si distribuiscono i doni, poiché è la vigilia del giorno dedicato a questo santo, Babbo Natale. In questi paesi si chiama Uomo di Natale. In alcuni villaggi in Belgio si celebra la figura di San Martino di Tours, e invece in molte tradizioni è San Basilio a portare i doni ai bambini e a Capodanno. Pausa. La pausa della... E quindi queste erano alcune curiosità sul Natale, quindi sulla figura di Babbo Natale, e non poteva mancare un pezzo natalizio che ormai risuonano ovunque, e anche su Pirate Radio e su Jolly Roger non poteva che mancare. I don't want a lot for Christmas. Si avvicina il bianco Natale, si avvicina anche a lei e a famiglia. E torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. E ora ripasso il mic alla nostra amica Alice.

E ritorniamo in diretta. Questo era un pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari. Ricordi come ricordi? Ricordatevi, anzi, ricordiamoci che è un anno di Jolly Roger. E ora ripasso il mic alla nostra amica Alice e ai suoi proverbi romani. Oggi iniziamo una cosa nuova, esatto, ha detto bene la nostra amica. Si stava meglio quando si stava peggio. Per consolarsi, basta guardarsi dietro. Mitiche. Male non fa, paura non avè. Sempre, ricordiamocelo tutti. Piove o non piove, al Papa magna. Al più pulito, ciao Arogna. Il mondo è fatto a scarpette, chi se le caccia e chi se le mette. Quando ti dice male, mozzichino pure e pecore. Questa è la più bella, scusate. Sinistra e destra è tutta una minestra. Soprattutto in questi tempi, e noi a poco ci interessa dalla politica, andiamo avanti con la nostra. Dai, Pietro! Andiamo avanti con la nostra musica. Ho scelto me, tanto non capirà nessuno, ed il migliore amico sarà il fumo. Ho scelto me, e la mia vita già va meglio, da quando sono sveglio ed ho capito lei chi è. Parla di me, e non sputare dove mangiavi, ora che sei esattamente ciò che odiavi. Sarà un rimorso eterno, un amore senza tempo, t'avrei dato anche la luna se solo l'avessi chiesto. La penna mi confessa. Unica amica quando tutto cessa e l'alluvione batte sulla mia finestra. Dicono che gli occhi non possono mentire, quindi togli le lentine e dimmi quello che hai da dire. Ho visto amici andare via in un attimo, brindo per loro, mentre guardiamo l'oro trasformarsi in platino. Se bevo tanto è soltanto per non ricordarmelo, che buoni se ne vanno e questi infami li risparmiano. Mille foto vecchie sparse per la stanza, chissà se sente la mancanza o con lui ci sta bene abbastanza. Chi gioca troppo con il fuoco rischia di bruciarsi, e siamo bravi a cadere ma il problema è rialzarsi. Per tutti quelli come noi senza regali, fuori dalle popolari, per il senso degli affari, no woman no cry, l'ho scelta io sta strada, prenderò ogni conseguenza e tu aspettami in pigiama. Ho scelto me, tanto non capirà nessuno, ed il migliore amico sarà il fumo. Ho scelto me, e la mia vita già va meglio, da quando sono sveglio ed ho capito lei chi è. Parla di me, e non sputare dove mangiavi, ora che sei esattamente ciò che odiavi. Sarà un rimorso eterno, un amore senza tempo, t'avrei dato anche la luna se solo l'avessi chiesto. Mamma cerca di salvare il figlio, anche se non sa che il figlio sta cercando di salvare lei. Per tutti i miei fratelli con i figli in braccio, per chi non può vederlo e dentro ogni lettera c'è un pianto. Mozziconi ovunque, piatti sporchi, dove sei? Non ricordo molto, ho perso il conto anche dei giorni miei. Un altro giorno a fingermi più grande è ridicolo, se da grande un giorno poi rimpiangerò quando ero piccolo. Non so spiegarti quello che è successo, so solo quante volte ho pianto aspettando sto momento. Erano un paio di scarpe all'anno il mio regalo di Natale, dalle suola consumate alle pume scatola non scartate. Il sogno italiano non è un sogno lontano, e che futuro immaginiamo se non ci emancipiamo? Schiavo di una nazione che insegue una banconota che purtroppo non è sua perché appartiene all'Europa. Ho scelto me, tanto non capirà nessuno, ed il migliore amico sarà il fumo. Ho scelto me, e la mia vita già va meglio, da quando sono sveglio ed ho capito lei chi è. Parla di me, e non sputare dove mangiavi, ora che sei esattamente ciò che odiavi. Sarà un rimorso eterno, un amore senza tempo, t'avrei dato anche la luna se solo l'avessi chiesto. Capirà nessuno, ed il migliore amico sarà il fumo. Ho scelto me. Ritorniamo in diretta. Questo era Rocco Hunt. Ho scelto me. Noi vi consigliamo di scegliere chiaramente Jolly Roger. Sostenete e supportate Jolly Roger. Riascoltateci tramite podcast al sito di pirateradio.it. E niente, stiamo arrivando piano piano alla conclusione di questa altra nostra nuova puntata. Ma i potenti mezzi di Pirate Radio ci consentono di far fare un saluto al nostro amico Matteo. Vai Ciccio. Dai, e noi passiamo un pezzo scelto dal nostro amico Matteo. E i potenti mezzi di Jolly Roger e di Pirate Red ci hanno permesso un saluto veramente al volo del nostro amico Matteo. Feeling blessed, io e il mio amico un tempo ci spaccavamo le tende. Ora che intorno a gente che non so come si chiama. Giro rotto per strada e non torno da un mese a casa, ma fa niente. Sto in giro, in vari arrivi, faccio un casino. Ma dopo scoppio a ridere, ci penso ed è proprio come se fossi ancora un bambino che ha voglia di vivere. Fino al mattino, per strada riscoprirò ogni mio limite. Sono fuori di me. E siamo bravi a fare il panico, panico, panico. A ritornare a casa sempre insieme alla luna. Ma non ci manca niente. E ieri ho fatto il panico, panico, panico. Ed ho bevuto fino a farti avere paura. Ma tanto c'è la mia gente, quindi I'm feeling blessed. Blessed per ognuno che mi sta accanto. Non scrivo più a quella perché ho già bisogno di altro. Ma comunque rimango con gli stessi cinque chiusi in un parcheggio in piena notte a fare qualche danno. No, baby, stiamo evitando sti miei email. Quando non lo siamo, ma diciamo che ok. O forse son solo io e tu lo sai. Non so più ciò che mi rianima quando mi quando mi sento troppo giù. Mi dicono c'è troppo animo, animo, animo. Dovresti fare le cose senza pensarci più, fra. Ma sono nel mio bravi a fare il panico, panico, panico. A ritornare a casa sempre insieme alla luna. Ma non ci manca niente. Quindi I'm feeling blessed. E ieri ho fatto il panico, panico, panico. Ed ho bevuto fino a farti avere paura. Ma tanto c'è la mia gente. Quindi I'm feeling blessed. Bolletti diversi da 2 mesi. Sto molto meglio, credimi. E questa notte esco, torno a casa. Fuori di me, anfetamine, mille idee che neanche Steven Spielberg. Stasera sto a Parigi, nessuno fermi il film. Vogliono tutti fare questa vita, amore questa è vita. Sono fuori di me, anfetamine, mille idee che neanche Steven Spielberg. Stasera sto a Parigi, nessuno fermi il film. Vogliono tutti fare questa vita, amore questa è vita. E questo è Jolly Roger. Stiamo arrivando alla conclusione della nostra puntata. Questa volta ci è volata quasi un po' come sempre, fra alti e bassi siamo riusciti a portare a termine anche questa puntata. Abbiamo salutato il nostro amico Matteo, ora passo il mic al nostro amico Lucone per il suo consueto saluto. Dopo jutro. Dici che vuol dire anche, ah, Ciccio, qui non siamo poliglotti come te. Dopo jutro. Va bene, ha detto che qualcosa ci vorrà dire, insomma, e niente, passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo per i saluti. Oh, siamo fatti di sogni che non

Falsa dopo iutro. E il nostro amico poliglotta prosegue i suoi saluti in croato. Un saluto a tutti e a tutte, un buon weekend, anche se uggioso in base alle previsioni, e ci salutiamo così. La nostra serata finisce qui e ora la fine del mondo. Ciao ciao! Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Ma non so cosa salvare. Sono a pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore. Con i piedi, con i piedi, con i piedi, ciao ciao. Con le mani.